Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Da quando nel 2001 comparve in Spagna L'ombra del vento di Zafón, milioni di lettori sono caduti in balia delle storie misteriose di cui è protagonista Daniel Sempere, che noi troviamo ragazzino proprio nelle prime pagine dell'Ombra del Vento, a sua volta ammaliato dalla lettura dell'unica copia esistente di un libro dello scrittore Julián Carax, i cui romanzi vengono spasmodicamente ricercati dal diavolo nella persona di Alain Courbet, che poi brucia tutti quelli che riesce a rintracciare. La vita di Daniel così viene travolta da vicende oscure che egli stesso, indagando sul mistero di cui viene a conoscenza, tenta di risolvere. Così nell'ultimo romanzo, fresco di stampa, Il prigioniero del cielo. Qui troviamo Daniel, adulto e sposato, che lavora nella libreria del padre con quest'ultimo e con colui che è diventato un amico fedele, Fermín. Ed è proprio Fermín che un visitatore sconosciuto cerca un giorno e, non trovandolo in libreria, acquista e lascia in dono per lui una pregiata copia del Conte di Montecristo, non senza prima scrivervi una dedica che non lascia presagire nulla di buono. Un altro mistero che arriva dal passato aspetta che venga dipanato da Daniel, il quale conduce così i lettori avidi di sapere a scoprire verità che lo riguardano da molto vicino. Il prigioniero del cielo è il terzo romanzo che fa parte della tetralogia sul cimitero dei libri dimenticati, di cui già fanno parte il succitato L'ombra del vento e Il gioco dell'angelo. I romanzi sono ambientati in una Barcellona protagonista con le sue viuzze, con le Ramblas, con le atmosfere cupe del periodo franchista. Una Barcellona che non smette di stregare ogni volta che si affaccia dalla penna di Zafón e che, nonostante, o forse proprio per questo, la pioggia e la nebbia l'avvolgano, dandole un aspetto ambiguo e fosco, continua ad apparire di struggente bellezza. Ancora una volta Carlos Ruiz Zafón incolla il lettore alla sua vis narrativa, al suo stile inconfondibile, all'intreccio dinamico che riesce a creare attraverso una scrittura nitida e senza sbavature. Zafón dipinge con le parole le atmosfere e le rende in tutta la loro espressività ai lettori, che non faticano ad immaginare persone, vicende e luoghi. I luoghi reali dei romanzi possono diventare un itinerario da percorrere per chi visita Barcellona e vuole unire la passione per i viaggi a quella per la lettura. Un itinerario che passa per i quartieri del Barrio Gotico e del Raval, in pieno centro storico, che sono i luoghi di Daniel, per poi arrivare, procedendo sempre per le piazzette descritte da Zafón, fino alla villa L'Angelo della Nebbia, la villa degli orrori descritta nell'Ombra del Vento. Tornando al nostro libro, con Il prigioniero del cielo, Zafón si conferma uno degli scrittori più amati degli ultimi anni, abilissimo a rendere con le proprie storie prigionieri i lettori di tutto il mondo. Cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.